The topic of our discourse this evening is the four modes of practice. The four modes. Il discorso di questa sera sarà le quattro modalità di pratica. Now, when we engage in the mindfulness practice, then probably most, if not all of us here, would like to have a development that is quick and pain-free, quick and pleasant. Allora, quando iniziamo la nostra pratica di vipassana, di consapevolezza, vorremmo avere un progresso veloce e felice, senza dolore. That's it. Now, the Buddha has certainly given a discourse on this particular topic. He says, O retreatants, there are these four modes of practice. Il Buddha ha parlato proprio di questo argomento e ha detto, meditanti, ci sono queste quattro modi in cui va la pratica. What for? Number one, practice that is painful with sluggish direct knowledge. Una pratica che è dolorosa con una conoscenza diretta lenta. Then secondly, practice that is painful with quick direct knowledge. Poi il secondo è una pratica dolorosa con una conoscenza diretta veloce. Then as number three, we have practice that is pleasant with sluggish direct knowledge. Il numero tre è una pratica che è piacevole con una conoscenza diretta lenta. And the last one is practice that is pleasant with quick direct knowledge. E l'ultimo è una pratica piacevole con una conoscenza diretta rapida, veloce. And what, O retreatants, is the practice that is painful with sluggish direct knowledge? E qual è la pratica che è dolorosa e che ha una conoscenza lenta? Here someone is by nature strongly prone to lust and often experiences pain and dejection born of lust. E qua una persona è per natura incline alla lussuria, al desiderio e quindi alla tristezza e alla sofferenza che provengono da questo desiderio. And by nature, he or she is strongly prone to hatred and often experiences pain and dejection born of hatred. Oppure per una persona che è per natura incline all'odio e quindi sperimenta la sofferenza e il dolore dovuti all'odio. By nature, one is strongly prone to delusion and often experiences pain and dejection born of delusion. E per una persona che per natura è incline alla illusione e quindi sperimenta il dolore e la sofferenza dovuti all'illusione. These five faculties arise in a meditator feebly. Queste le cinque facoltà sorgono in questo meditante in modo debolmente, sorgono in modo debole. And so the faculty of faith, of energy, of mindfulness, of concentration, and the faculty of wisdom. Che sono le facoltà della fede, dell'energia, della consapevolezza, della concentrazione, della saggezza. And so because certain of these five faculties are feeble in a person, he or she sluggishly attains the immediacy condition for the destruction of the taints. E dato che queste facoltà sono così flebili, deboli in questo meditante, questa persona ottiene molto lentamente la distruzione delle contaminazioni. This is called practice that is painful with sluggish direct knowledge. E questa è la pratica che è dolorosa e lenta, con una conoscenza diretta lenta. I'm missing a paper here. Now, the second form of progress. Let me see here. The second form of progress is painful progress with quick comprehension. La seconda forma di progresso è il progresso doloroso, ma con una conoscenza rapida. And in this case, a person possesses by nature excessive greed. Wait a minute. Is this not, the numbering is not quite okay. No, that's correct. So in this case, a person possesses by nature excessive greed, hatred, and delusion, but the five controlling faculties are sharp in him or her. Allora, in questo caso, questa persona possiede per natura in modo eccessivo l'avidità, la rabbia e l'illusione, però le sue cinque facoltà sono acute, sono forti. And for this reason, such a person reaches quickly the cessation of all taints. Per questa ragione, questa persona riesce a raggiungere velocemente la cessazione di tutte le contaminazioni. And then number three is, and what is practice that is pleasant with sluggish direct knowledge? Poi c'è la pratica che è piacevole ma con una conoscenza diretta lenta. And here someone by nature is not strongly prone to lust, hatred and delusion, and does not often experience pain and dejection born of lust, hatred and delusion. Qui una persona non è fortemente incline all'avidità, alla rabbia, all'illusione, quindi non sperimenta molte forme di dolore, di sofferenza dovute a queste tre fattori. And these five controlling faculties arise in a person feebly. Però le cinque facoltà di controllo sorgono in questa persona in modo debole. Namely, the faculty of faith, of energy, of mindfulness, of concentration and wisdom. La facoltà che sono della fede, dell'energia, della consapevolezza, della concentrazione, della saggezza. And because these five faculties are feeble in him or her, the person sluggishly attains the immediacy condition for the destruction of the taints. E dato che queste facoltà sono deboli in questa persona, riesce a ottenere molto lentamente le condizioni per la liberazione dalle contaminazioni. And this is called practice that is pleasant with sluggish direct knowledge. Questa è la pratica piacevole con la conoscenza lenta. And then we have the fourth mode of practice, and what is practice that is pleasant with quick direct knowledge. E poi il quarto modo di praticare è una pratica piacevole con una conoscenza diretta rapida. And so here, you know, someone by nature is not strongly prone to lust, hatred and delusion. Quindi qualcuno qui per natura non è incline fortemente all'avidità, all'odio e all'illusione. And the five controlling faculties arise in the meditator prominently. E le cinque facoltà di controllo sorgono in questo meditante in modo molto forte. And because these five controlling faculties are prominent, the person quickly attains the immediacy condition for the destruction of the taints. E grazie alla forza di queste cinque facoltà di controllo, questa persona riesce velocemente ad ottenere la distruzione delle contaminazioni. And so this is called the practice that is pleasant with quick direct knowledge. Quindi questa è la pratica piacevole con una conoscenza diretta, rapida. So, the development in our, the mode of development in our practice depends on the presence or absence of the unwholesome, the roots of all suffering, namely greed, hatred and delusion. Quindi il modo in cui si sviluppa la nostra pratica dipende dalla presenza e dalla quantità delle tre radici malsane, quelle dell'avidità, dell'odio e dell'illusione. And our mode of progress also, or of development also, depends on the strength of the controlling faculties. E dipende anche dalla potenza delle facoltà di controllo. Now, the Venerable Sayadaw Kundala Biwamsa, in this certain regard, has certainly remarked that certainly the mode of development of the meditator's practice will also depend on how much practice the person has done in preceding, in earlier existences and in this very existence. E Sayadaw Kundala Biwamsa della Birmania, lui dice che il modo di pratica, dello sviluppo della pratica di una persona dipende anche da quanto e come questa persona ha praticato sia nelle vite precedenti ma anche in questa stessa vita in passato. No. It is well known and certainly stated in the texts that certainly elder Mahamoggallana, a chief disciple of the Buddha, gained arahantship 1 week earlier than elder Sariputta. Quindi nei testi è detto che uno dei principali discepoli del Buddha, Mahamoggallana, riuscì ad ottenere lo stato di Arant una settimana prima del venerabile Sariputta. And the reason for this was that elder Sariputta did get lost in Dhamma reflections or Dhamma analysis, if you like to. E la ragione di questo è che il venerabile Sariputta si era un po' perso nell'analizzare il Dhamma. Now, we will probably all want to be in that category of pleasant development, a pleasant mode of development in our practice with quick comprehension. Allora, probabilmente tutti noi vorremmo appartenere alla categoria dello sviluppo piacevole e veloce. But reality might be quite different. La realtà potrebbe essere diversa. We might find ourselves in the first category. Potremmo ritrovarci nella prima categoria. And whatever the mode of practice might certainly be, the main thing is that we just practice. E qualunque sia la nostra modalità di pratica, la cosa principale è che continuiamo semplicemente a praticare. And so if there's a nice illustration in Burma, if one wants to go and certainly pay respect to the Shwedagon Pagoda, the country's most certainly famous and most revered pagoda, well, one has to first of all direct oneself towards the pagoda and then take one step after another in that direction, and eventually one will get there. C'è un'illustrazione in Birmania che si dice se si vuole andare a rendere omaggio alla pagoda Shwe Dakon, che è la più famosa e importante che c'è in Birmania, la prima cosa da fare è quella di dirigersi verso la pagoda e poi un passo dopo l'altro arrivare lì. And so the same thing in our meditation practice, whether our mode of development is quick or slow, it doesn't matter. The main thing is that sadhana, we are inclined, we're going in the right direction and simply just keep on practicing. E quindi qualunque sia il nostro modo di pratica, che sia rapido o lento, la cosa importante è semplicemente che manteniamo la giusta direzione e che poi continuiamo a proseguire. However, if we're not really, not fully committed, not fully devoted to the practice, then things certainly may take indeed a long time. Però bisogna anche dire se noi non ci impegniamo davvero, non siamo devoti veramente alla pratica, allora può veramente volerci molto tempo. Now, as long as we observe objects with patience, with determination, we practice restraint of the senses, we ensure a good certain continuity of our mindfulness, we do things slowly, and we are contented with what we receive in terms of food and accommodation and teachings, etc. And also assuming that we practice with care and certain respect, well, then the meditation is bound to unfold. Quindi, se noi osserviamo le cose in modo molto meticoloso, cerchiamo di contenere i sensi, di rendere la nostra consapevolezza continua, siamo anche molto grati del cibo che riceviamo, rallentiamo durante le nostre attività. And we practice with care and respect, then the practice will move ahead. Pratichiamo quindi con molta cura e molto rispetto, allora la pratica si muoverà in avanti. But if there's no care and respect for our own practice, and we practice in a superficial manner and on and off with discontinuous mindfulness and so on, then not much can be expected. Ma se non abbiamo cura, non abbiamo questa sorta di attenzione per la nostra pratica e di rispetto, quindi vuol dire che pratichiamo un pochino e poi un po' invece lasciamo stare, non creiamo questa continuità della consapevolezza, allora è normale che sia difficile aspettarsi dei gran progressi. And if we, on top of that, if we happen to be fussy and selfish and demanding, this too will slow down the progress. E inoltre, se siamo molto egoisti, egocentrici e diciamo pretendiamo molto, questo tipo di attitudine rallenterà ulteriormente la pratica. No. Still, there's some more factors to be considered. A person who's sadhana done samatha practice prior to the vipassana practice, this will clearly help the vipassana practice. C'è un'altra cosa da dire: se una persona prima di fare pratica di vipassana ha sviluppato la samatha, questo sarà di aiuto alla pratica di vipassana. And the reverse is the prior vipassana practice in turn helps sadhana the samatha practice. È vero anche il contrario, che una pratica di vipassana fatta prima può poi aiutare una seguente pratica di samatha. And so whoever has done vipassana practice prior to the samatha practice will enjoy some degree of sadhana, purity of mind, and that sadhana then supports the samatha practice. E quindi chi ha fatto samatha in precedenza, sì, ha detto samatha. That leads to purity of the mind. Quindi chi ha fatto samatha in precedenza. No, sorry, who a person who does vipassana prior to samatha. Okay, sorry. Quindi chi ha fatto prima la pratica di vipassana si può raggiungere più facilmente una certa purezza della mente e quindi poi quando andrà a fare samatha questo sarà di aiuto. Now, on the other hand, if the samatha practice precedes the vipassana practice, then it's due to the strengthened concentration that our vipassana practice will be supported. Invece se si fa prima la samatha, la pratica di vipassana verrà aiutata, sostenuta dalla forza della concentrazione. Also what makes certainly a big difference is the intensity with which we practice. So if our intensity is rather low, then the meditation will move ahead slowly. E cambia anche l'intensità con la quale pratichiamo. Se la nostra intensità è un'intensità bassa, allora le cose si muoveranno lentamente. And so with great intensity, well, a quick development can be expected. Invece con una grande intensità di pratica ci si può aspettare degli sviluppi più veloci. Now, in praise of Fortuna wisdom, the following points have been said, namely, among all beings, the Buddha is the most noble. Allora, mentre come elogio della saggezza abbiamo detto queste cose, cioè che tra gli uomini e tutti gli esseri il Buddha è il più nobile. And among all physical and mental phenomena, wisdom is the most noble. Tra i vari fenomeni mentali e mentali, sì, e fisici, la saggezza è il più nobile. And why is this? Because when wisdom is accomplished, all wholesome dhammas are accomplished. E perché? Perché quando la saggezza viene portata a compimento, il dhamma viene compreso. Viene? No, all the wholesome mental states. Tutti i dhamma salutari vengono compiuti. Then, among all dhammas contributing to Nibbana, wisdom panya is the most noble. E tra tutti i dhamma che conducono al Nibbana, panya, la saggezza, è il più nobile. And the other factors are followers of wisdom. E gli altri fattori sono dei fattori che seguono la saggezza. So among all living beings, those who possess wisdom are said to be most noble. E tra tutti gli esseri viventi, coloro i quali possiedono la saggezza sono detti essere più nobili. And then there's this certain connection between wisdom and certain happiness. E c'è poi questa connessione tra la saggezza e la felicità. And so Dhammapada verse number 200 states, indeed we live very happily without any anxiety. C'è un verso del Dhammapada che dice viviamo felicemente senza alcuna ansia. And without anxiety, without anxiety means with a mind that is without greed, a mind that is without ill will and without ignorance. E senza ansia qui significa una mente che è senza avidità, senza malevolenza e senza ignoranza. And so when these certain three roots of suffering are not present in the mind, well then wisdom will be present. Quando queste tre radici malsane non sono presenti nella mente, sarà presente la saggezza. And as a result we live happily. E il risultato è che viviamo felici. And to express it differently, when we live in accordance with the Dhamma, out of an understanding of the Dhamma, an understanding how things work in terms of physical formations, mental formations, then naturally happiness will result. Possiamo anche dire che quando viviamo in accordo con il Dhamma, cioè con la comprensione del Dhamma, cioè di come funzionano i fenomeni mentali e i fenomeni fisici, allora seguirà in modo naturale la felicità. Now, during this sadhana retreat, we've practiced Satipatthana mindfulness meditation in an intensive manner, and as a consequence of Fatna, this, well, degrees of intuitive wisdom have arisen in all of the retreatants here. E in questo ritiro abbiamo praticato la meditazione di Vipassana Satipatthana in modo intensivo e come risultato diversi gradi di saggezza e di conoscenza intuitiva sono sorti in tutti i meditanti. Also tomorrow is the day of Fatna departure, and that wisdom that has arisen, this we want to take with us, and we want to then make good use of it during our daily life outside of retreat. Domani è il giorno delle partenze e noi vogliamo portare con noi la saggezza che abbiamo fatto sorgere qui e cercare di utilizzarla anche nella nostra vita quotidiana. So this means that we need to adjust our daily life in ways that are conducive to the arising of the practice of mindfulness and certainly development of concentration, and out of that then the arising of intuitive wisdom. Quindi magari possiamo fare dei piccoli cambiamenti nella nostra vita quotidiana in modo da sostenere la pratica della consapevolezza, che poi può condurre alla concentrazione e allo sviluppo della saggezza intuitiva. And so the first step to take is, just like on retreat, to be well established in the presence. Quindi la prima cosa da fare, come facciamo qui in ritiro, è di mantenere stabilmente i precetti. And the minimum here are the five precepts. E il minimo sono i cinque precetti. And those five precepts will ensure that our conduct will be ethical in nature, and we're not going to transgress. Questo farà sì che la nostra condotta sarà etica e che non ci conduca alla trasgressione. Will not transgress by body nor by speech. Cioè senza trasgredire i precetti tramite il corpo o la parola. And then we try to set aside some time during the day for formal sitting practice, if time permits, also for formal walking practice. E poi cerchiamo di tenerci un momento della giornata in cui possiamo fare della pratica formale seduta e, se abbiamo dell'altro tempo, anche la meditazione camminata formale. And so this could be early in the morning, when it's still relatively quiet at home. Magari alla mattina presto, quando a casa c'è ancora silenzio. But this could also be at other times during the day. Ma possono essere anche altri momenti della giornata. So that depends on each individual. Questo dipende da ognuno di noi. And then it's good certainly to maintain that daily mindfulness practice in a continuous manner, and not to become somewhat erratic. E poi è anche bene cercare di mantenere questa pratica della consapevolezza in modo continuo durante la nostra giornata, senza lasciare errare troppo la mente. And that certainly then, if we practice on a regular basis, even when things are not going that well and difficult mental states arise due to external conditions, then we still try to practice. Quindi se noi cerchiamo di praticare così, anche quando poi possono sorgere degli stati mentali difficili, magari anche dovuti a delle condizioni esterne complicate, noi possiamo provare a continuare con la pratica. And as we've seen during this intensive retreat, mindfulness practice does lead to some degree of purification of the mind. Come abbiamo visto durante questo ritiro, la pratica della consapevolezza porta a un certo grado di purificazione della mente. And the same thing happens during our formal practice, during daily life. La stessa cosa accade anche nella pratica formale che possiamo fare nella nostra vita quotidiana. And so if in the course of a day we accumulate some unwholesome mental state or some unwholesome mental states arise, well, during our formal practice, we at least to some extent will be in a position to let go of those unwholesome mental states. Quindi se durante la nostra giornata abbiamo accumulato vari tipi di stati mentali non salutari, quando ci sediamo per la nostra pratica formale possiamo lasciare andare almeno un po' di questi stati malsani. And then, during the formal sitting practice at home, well, we'll be experiencing the rising and falling movement of the abdomen and so many other objects as they naturally arise in the body and in the mind. And with that, we become more experienced. We learn how to better deal with what is coming up. E nella nostra pratica formale a casa noi osserveremo il salire e scendere dell'addome, qualunque altro oggetto che diventa predominante, e continuando a fare questo diventeremo sempre più esperti nell'osservare le cose che avvengono. Mm-hmm. And that in turn, then over time will contribute towards the next retreat. It's a building a foundation for the next retreat. E questo è come se va anche a costruire delle fondamenta più solide poi che ci portiamo al ritiro successivo. Mm. Now, mindfulness in daily life is not limited to only doing a formal sitting session at some time during the day, but rather, and it's very important, is to integrate the mindfulness into one's daily activities as much as possible. E quindi la nostra pratica di consapevolezza nella vita quotidiana non si ferma alla la seduta formale che facciamo, ma invece è meglio cercare di proprio applicarla e renderla continua nelle varie attività che facciamo durante il giorno. And so there will surely be some simple activities like taking food or doing the dishes or sweeping a room, opening closing of eyes and suddenly opening closing of doors, etc., that we can do with a fair amount of mindfulness. Quindi ci sono tante piccole attività come quando mangiamo, spazziamo il pavimento, laviamo i piatti, apriamo e chiudiamo le porte, apriamo e chiudiamo gli occhi. Ci sono varie piccole attività che possiamo fare con consapevolezza. And even walking from one place to another, placing a telephone call, placing a call, talking to another person. Anche muoversi da un posto all'altro, oppure anche fare una telefonata, parlare con un'altra persona. Or even if you go shopping, you can still take your mindfulness along. E potete portare la consapevolezza con voi anche quando andate a fare shopping. No. And be mindful on the way to your store. Essere consapevoli in tutta la strada che facciamo per arrivare al negozio. Now, what else helps is to possibly be part of a sitting group that meets maybe once a week or once every 2 weeks, and then to be together with like-minded people and practice together. Una cosa utile, se possibile, è quella di unirsi a un gruppo di meditazione, magari una volta a settimana o due, e quindi a unirsi a altre persone che praticano. And maybe read certain some Dhamma text together and certainly discuss it. Magari leggere insieme qualche testo del Dhamma e discuterlo. Or if conditions are favorable, then to be part of a study group, a Dhamma study group. E se ci sono le condizioni giuste per cui è possibile farlo, si può anche far parte di un gruppo di studio del Dhamma. So this could be study of the various suttas, or it could be studies of the Abhidhamma. Quindi in questo gruppo si può studiare i sutta oppure l'Abhidhamma. Or the Pali language. Oppure la lingua Pali. or we could do the same thing online. E possiamo fare tutte queste cose anche online adesso. So even if we live somewhere in the countryside and there's no, there aren't too many meditators around, we can still through the internet be connected with like-minded people. Quindi se per esempio viviamo in campagna o in dei posti non ci sono molti meditanti attorno a noi, grazie a internet possiamo trovare delle altre persone. And then what else? We might also, on occasion when we notice that our practice is somewhat backsliding a bit, we might decide to do a self-retreat, a self-retreat over the weekend at home. E se vediamo che la nostra pratica sta un po' indietreggiando, magari ogni tanto possiamo farci un autoritiro, un ritiro in solitario da soli a casa, magari nel weekend. And so Friday evening we go shopping and then do all the cooking for the weekend, and then Saturday morning we unplug all telephones and turn off the cellular phone, and then we practice. Quindi venerdì pomeriggio andiamo a fare la spesa, cuciniamo per tutto il weekend, poi stacchiamo tutti i vari device e cellulari e ci mettiamo a praticare. If you don't want to do it alone, then invite some Dhamma friends over for a weekend together. E se non volete farlo da solo, potete invitare un amico di Dhamma per passare insieme a questo weekend. Also one more point, practical point, that personally I found to be very valuable, is after a formal sitting session to write down one's experiences. E poi una cosa che secondo me è molto utile è dopo aver fatto una seduta di meditazione continuiamo a scrivere la nostra esperienza, ad annotarla. No. If you have this habit of writing down your experiences, you have to practice in such a way that you have something to write down. And so this means you have to observe properly what is really happening. Questo perché se abbiamo l'abitudine di scrivere, di annotare la nostra pratica, vuol dire anche che dobbiamo praticare in modo da avere qualcosa da poter scrivere, quindi con più attenzione. No, otherwise, what may easily happen is, you do your formal sitting meditation, but you fall asleep. And so the benefit of that will be limited. Quindi se no magari succede che ci sediamo a fare la seduta formale, però ci addormentiamo e quindi i benefici saranno un po' limitati. Also reading Dhamma texts, reading Dhamma books, or listening to recorded Dhamma talks, that's of course also a good way to keep, to support our faith in the practice. Poi in the Dhamma. Un altro modo per mantenere e supportare la nostra pratica e anche la nostra fede nella pratica e nel Dhamma è quello di leggere libri di Dhamma, leggere i testi, i sutta e anche ascoltare registrazioni dei Dhamma talk. And when you have one person in a family who's quite devoted to, you know, the mindfulness practice, this typically can be quite contagious, but in a positive way. E quando in una famiglia c'è una persona che è veramente molto devota alla pratica della consapevolezza, questa tende a essere una cosa contagiosa, però in senso positivo. So, in the sense that if one person is devoted to the mindfulness practice and does certain things in a slow and mindful manner and lives in a somewhat peaceful manner, that will have an impact on the other family members. Quindi se una persona è devota alla consapevolezza e fa le cose in casa in modo tranquillo, lento, pacifico, questa cosa avrà un impatto anche sugli altri membri della famiglia. And then soon, you know, there's not just one person practicing, but there might be a second person joining, and then a third person, and so on. Quindi magari quello che succede è che presto poi ci sarà non solo una persona che pratica, ma poi se ne unisce un'altra e magari un'altra ancora. And there is the famous Epler family from Switzerland, where father and mother went on retreat, took turns going on retreat in Burma. E poi può diventare come questa famiglia svizzera molto felice, Epler. Ah, una famosa famiglia svizzera in cui sia il padre che la madre andavano in ritiro in Birmania. Yeah, and suddenly so they took turns and they're going on retreat, and suddenly when their two children were old enough to meditate, then they would take those and take their children along to for retreats in Burma. Quindi poi quando hanno avuto dei bambini, poi i bambini quando sono stati grandi abbastanza, anche loro venivano portati a fare ritiri in Birmania. No, and now almost the entire family has become a family of meditators. E tutta la famiglia adesso è diventata una famiglia di meditanti. Actually pretty good meditators. Oh? Pretty good meditators. Dei meditanti veramente bravi, tra l'altro. Yeah, right. Now, when after a retreat, when we return to our normal life, we'll rejoin our family, etc., then we have to keep in mind that, our mind may be somewhat purified, but others who did not go on retreat may still be as rough and harsh as ever. Quindi adesso che torneremo dalle nostre famiglie, nella nostra quotidianità, dobbiamo tenere a mente che sì, magari la nostra mente ora è più pura, si è purificata, però che invece le menti delle altre persone saranno ancora come erano prima, molto grezze e brusche magari. And so when you go home, don't be surprised if on occasion you get a rough treatment. Quindi se tornate a casa non sorprendetevi se in qualche occasione riceverete dei trattamenti poco carini. You may want to spread peace at home, but your family might not respond according to your wishes. Magari voi volete tornare e espandere la vostra pace a casa, però la vostra famiglia invece non risponde nella maniera voluta. And so be patient. Quindi siate pazienti. Be patient with yourself and also with others. Sia con voi stessi ma e pazienti anche con gli altri. And maybe also when you come back from, you know, retreat, your family will, you know, ask you, well, how was it, etc. And your family may, you know, closely observe your actions. And if you happen to get all upset, all angry because of some tiny little matter, you know, then basically you are showing that you retreat, that you still need to do some more retreats. E poi un'altra cosa, se tornate a casa, magari poi le raccontate tutta la vostra esperienza alla famiglia, poi la vostra famiglia inizia ad osservarvi attentamente come vi comportate, se vi arrabbiate magari per qualche sciocchezza, allora si pensano che insomma ci sono ancora tanti ritiri che bisogna fare. Just to relate, just for the fun of it. To relate a story I've heard that actually happened in Malaysia. So a Western meditator went to practice at one of the meditation centers. Then the retreat came to an end. He went to the train station and intended to catch a particular train. Allora, racconto una storia così per divertirci un po'. C'era un meditante occidentale che aveva fatto un ritiro in Malesia, poi il ritiro era finito, allora era andato in stazione e voleva prendere proprio un treno in particolare. And when he arrived at the train station, it was just the train was just about to leave, and he still tried to get onto the train and didn't manage. E proprio quando è arrivato in stazione il suo treno stava proprio partendo, quindi lui ha cercato di raggiungere il treno per salirci, ma non ci è riuscito. And the station master wouldn't stop the train for him to get onto the train. E il capostazione non aveva fermato il treno per farlo salire. And that yogi then apparently went into the office of the station master and then kicked at the desk that was placed there. E quindi questo meditante è andato nell'ufficio del capostazione e ha tirato un grosso colpo alla scrivania, sì, well, un calcione alla scrivania. And so after a longer retreat, that is really not very good PR for meditation. Quindi dopo aver finito un lungo ritiro di meditazione, diciamo che non è proprio un modo per pubblicizzarla al meglio. Now, some of the benefits that might arise from the mindfulness practice are the relative purity of one's mind. Quindi tra i benefici della pratica di consapevolezza c'è questa mente che è relativamente pura. And then being able to relatively quickly overcome unwholesome mental states. E poi di essere abili nel riuscire a superare abbastanza velocemente gli stati non salutari. And then, as mentioned already, with one's daily practice, one builds a foundation for the next retreat. E poi, come ho detto prima, con una pratica continua si sta anche creando una fondamenta per il ritiro successivo. And if there's some tricky worldly situation has arisen and one doesn't quite know how to solve it, how to approach it, well, early morning mindfulness meditation may help. And when the mind calms down, then it may happen that an intuitive solution comes up. Se nella nostra vita sono sorte delle situazioni complesse, difficili, che verso cui non sappiamo bene come comportarci o cosa fare, può essere utile fare una meditazione formale, delle meditazioni formali alla mattina presto, e può succedere che intuitivamente ci arrivi la risposta, sapere cosa fare. And if we combine our daily practice also with metta meditation, so let's say we do one session of mindfulness practice, one session of metta practice, the metta practice will ensure that this wholesome state of loving kindness is present in one's own mind, and to some extent it will have an impact on others. E può essere utile anche fare una pratica di metta, quindi magari fare una seduta formale di consapevolezza di Vipassana, ma anche di metta, e la metta ci aiuterà poi con la sua presenza sia nella nostra mente, ma avrà anche un impatto sulle persone intorno a noi. And so with that, the interactions with others tend to be far more harmonious. In questo modo le nostre interazioni con le altre persone diventano più armoniose. Now maybe this much for today, a little bit more could be explained tomorrow, and I guess some questions will also be there. Allora, forse per oggi va bene così. Domani avremo questa sessione di domande e risposte. What time? A che ora? What, 9 o'clock? I don't know. What time is best? When you want. Nine, no? From 9 to 10. And then from 10 to 12 packing. Yeah, also before, after breakfast. Yeah, okay, so then let's say 9 o'clock. Allora alle 9 possiamo fare questa sessione di domande e risposte, poi per fare le valigie, pulire le camere avrete tempo, credo, dopo colazione, anche dopo la sessione di domande e risposte. Okay, so allow me to conclude today's discourse by wishing the intuitive wisdom that has arisen so far, please, it's precious, and then look after it, try to develop it further as much as you can, and may it bring you many, many benefits. Quindi per concludere vi auguro e dico anche per favore di fare attenzione che il fatto che la saggezza intuitiva che è sorta in questo ritiro è molto importante, quindi vi prego di continuare a svilupparla, di tenerla in considerazione, e perché può portare veramente molti benefici. I think it's too late because they are all in the basket and they are a lot. So maybe we need 2 hours tomorrow. You can take the basket now if you want. Similar topics will just give one answer. Sì, cioè se ci sono tante domande un po' simili, verranno messe insieme naturalmente in una risposta che le abbraccia tutte. Volevo dire. Bante? About silence tomorrow morning schedule. We keep up the silence until the end of that morning session. Yeah. And answer, you can speak. After then we can speak. Also at lunch. And also at lunch. Okay. Yeah. Quindi il silenzio domani si può rompere dopo la sessione di domande e risposte. Okay, we can break the silence after the question and answer session tomorrow. You can speak. And have lunch together speaking. Yeah, potete parlare anche a pranzo.